una pacca sulla spalla sul coraggio. Trovare ciò che cerchi è un po' come trovar parcheggio. Il fatto che sei bella non fa testo. Ebro, nel grande vuoto costellato mi son perso. Il vuoto tra di noi non può spegnere i miei sensi. La pioggia tra i capelli asciuga i tuoi silenzi. Nei miei occhi tra di noi e persi nelle notti, abbandonati tra carezze che ora sono un'incertezza. Desideri scomposti, giochi di sguardi persi nel vuoto, capelli sciolti, buttati al vento come fiori secchi, stretti tra le mani, molteplici riflessi strani. Potrei dimenticare quello che c'è stato. Immagini nella mia mente richiamano il passato. Ho lasciato i miei ricordi in un tempo che non è trascorso mai. Ora sento voci, suoni che turbano i pensieri. Sei bella quando ti vergogni, quando passi la tua mano sui miei occhi e me li chiudi perché posso immaginarti prigioniera dei tuoi attimi distorti. Mentre dormi, mentre piangi, mentre affondi per sane i miei sensi. Mentre affondi per sane i miei sensi. Il cielo si nasconde tra le nuvole, sotto il sole tu mi perderai. Ascolta i tuoi silenzi e per niente al mondo potrai lasciare che il buio turbi i sentimenti tuoi. Tu là, baciata dal sole, io morso dalla nebbia, tu granello di sabbia, tu curiosa luce che si infrange su di uno specchio, che mi lascia spettinato ogni mattina alzandomi dal letto e dire vaffanculo, un altro giorno sta per cominciare senza te, senza te, senza te. Tu che cerchi di capirmi, tu che perdi tempo coi mosaici, coi tuoi silenzi, tu che colori e separi le pietre dai sassi, tu che mi lasci in bocca al lupo per tutto e che il diavolo ti porti.